Buon Natale, buon Natale, Natale, buon Natale, è il mondo unito oggi che festeggerà a tutti. Buon Natale, buon Natale, e una festa qua si farà. Ascoltale di più, risuonano nell'aria con un suono celestiale. Lo sai che cosa sono? Campane di Natale. Ehi, amico, il mondo ha tanti suoni, bombe, lamenti e colpi di cannone, ma c'è un suono buono che sconfigge il male. Tu lo sai qual è? Ci fa bene, è un suono che unisce, è un suono solidale. Ascoltale anche tu, campane di Natale. Sì, fratello, ascoltale col cuore, è un suono unico, che non ha colore e che ogni uomo all'altro rende uguale. Lo senti come suonano campane di Natale? E il fratello le Le mani che stanno together.